prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Nei giorni scorsi i vescovi della regione ecclesiastica del Triveneto hanno vissuto insieme alcuni giorni di esercizi spirituali nel centro diocesano di spiritualità San Fidenzio di Novaglie nel Veronese. Le meditazioni sono state proposte dal vescovo emerito di Novara, Monsignor Renato Corti. Nel corso dell'incontro i vescovi del Triveneto hanno espresso apprezzamento per quanto le realtà istituzionali, associative ed ecclesiali stanno facendo per rispondere all'accoglienza dei numerosi rifugiati che giungono nel nord-est, invitando anche le comunità cristiane a essere sempre più generose e concretamente attente a questi fratelli e sorelle portatori di tante sofferenze. E anche la recentissima visita di Papa Francesco, del Patriarca Bartolomeo all'isola di Lesbo hanno ulteriormente rafforzato questo impegno. I vescovi hanno condiviso le preoccupazioni per le chiusure di accesso prospettate da parte di alcune nazioni europee, in particolare per quanto riguarda il nostro stato, uno degli stati confinanti, quindi l'Austria. Danno pieno appoggio alla dichiarazione rilasciata dal vescovo di Bolzano Bressanone, Monsignor Ivo Müser, dal titolo «L'Europa ha bisogno di soluzioni comunitarie e non di nuove barriere». Se le persone intravedessero una prospettiva futura nella loro patria, dice il vescovo di Bolzano Bressanone, non rischierebbero la loro vita per venire in Europa. Bisogna creare le condizioni necessarie per che essi possano vivere nella propria terra in pace e libertà. Il flusso di profughi provenienti da paesi dove una vita in pace e in libertà non è possibile non è un'ondata migratoria di alcuni mesi, ma un movimento di massa che si protrarrà per anni. È comprensibile che vi siano timori, incertezze e fatiche nell'affrontare la questione dei profughi. Tuttavia, questi timori non devono essere utilizzati come mezzo politico contro i profughi. Non esistono soluzioni semplici. Sono profondamente convinto, aggiunge il vescovo, che ci possa essere soltanto una soluzione comunitaria. L'Europa può affrontare questa sfida. Quando però singoli paesi si tirano indietro, lasciando quindi che la responsabilità comune ricada su pochi, questi pochi non ce la faranno. O affrontiamo questa sfida in modo comunitario, come una questione europea, oppure siamo destinati a fallire, se gli interessi che ci guidano sono soltanto quelli del proprio Stato, oppure quando alcuni Stati membri dell'Unione Europea vengono lasciati da soli. L'emergenza profughi caratterizzerà notevolmente lo sviluppo futuro dell'Europa. Barriere, interessi di singole nazioni, la differenza tra noi e gli altri, tra i locali e gli stranieri, tutto questo suscita timori e costruisce steccati nelle nostre teste e nei nostri cuori. In merito alle iniziative al Brennero, dice il vescovo di Bolzano Bressanone, Monsignor Müser, la mia prima preoccupazione non risiede nel fatto che l'economia e il turismo potrebbero avere risvolti negativi, ma va soprattutto a quelle donne, a quegli uomini e quei bambini in fuga che hanno bisogno del nostro aiuto. Il loro grido di aiuto, la loro fuga non è nient'altro che questo, richiede la nostra attenzione, il nostro cuore generoso. A cosa serve celebrare l'anno della misericordia se poi siamo duri di cuore nei confronti del prossimo? Bisogna aiutare le persone bisognose. Il come è da affrontare in modo concreto e competente. L'emergenza profughi inizia però in primo luogo nella consapevolezza che questi migranti sono nostri fratelli che hanno bisogno del nostro aiuto. Ringrazio quindi di cuore tutte le persone che si impegnano in questo campo e affrontano questa sfida, in particolare la Caritas diocesana e l'associazione Volontarius, che svolgono un servizio prezioso. Ci sono anche numerosi volontari che nelle parrocchie si contraddistinguono per il loro impegno nei confronti di questi uomini, donne e bambini. Un particolare ringraziamento va anche ai responsabili della società e della politica che affrontano questa sfida in modo ragionevole, senza grandi slogan populistici e con un atteggiamento di solidarietà. È compito specifico della politica offrire strutture sostenibili e lungimiranti modelli di integrazione. Come Chiesa locale desideriamo tuttavia continuare a dare il nostro contributo, lo compiamo con convinzione. È nostro compito come cristiani quello di preoccuparci di queste persone bisognose, poiché l'amore vissuto nei confronti del prossimo è la carta d'identità dei cristiani, l'espressione dell'essere e della vita della Chiesa. L'aiuto ai profughi è un comandamento urgente, un comandamento della nostra fede. Questo è il messaggio del vescovo di Bolzano Bressanone, Monsignor Ivo Müser, ha rivolto alla sua comunità, ovviamente confinante, nel cui territorio appunto si trova proprio il valico del Brennero, quindi un tema particolarmente sentito in questa comunità, ma ovviamente la questione riguarda tutti, anche coloro che fisicamente dal Brennero sono distanti, ma magari sono vicini ad altre situazioni. Il Papa ci ha dato esempio, ha portato con sé una dozzina di persone e ha raccontato, appunto l'ha fatto anche questa domenica nel corso del Regina Coeli, ha raccontato quanto ha vissuto e l'esperienza che ha sentito con le proprie orecchie e visto con i propri occhi. Lo stesso Papa Francesco, poi non dimentichiamo, ha invitato tutte le comunità cattoliche europee ad una raccolta fondi per questa domenica prossima, 24 di aprile, a favore delle popolazioni dell'Ucraina. È un territorio di cui ci siamo dimenticati, dove c'è in corso di fatto un conflitto appunto con la Russia, è un conflitto di cui ancora una volta soffre la popolazione civile. Quindi questa domenica tutte le offerte raccolte nelle chiese cattoliche d'Europa saranno destinate proprio a favore della popolazione ucraina su invito del Papa. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.